Attenzione, Eugenio. Scappa, positivo, Tino, con la buonasera. Sveglia, come vai? Sono qua. E va bene anche, abbasso un po' la voce perché è molto amplificato. E ha voglia. Bella radio, forte pure. No, lascia come vai, lascia. Ehi, quello che mi ascolta? Brucco, per un controllo. Hai visto? Hai anche indovinato le connessioni. Va bene, aspetta un attimino. Non ce l'hai ancora? Mentre invece così va bene. Va bene, va. Ma io ogni tanto da segni di malumore questa radio. Guardami questo segnale oggi, che poi faccio un passaggio con un'altra radio. Hola, hola, hola. E invece è questa. Non va bene questa. Vabbè, questa è sempre un veicolare, è piccolino. Però con un più 5 in abbinamento. L'altro invece non ne posso mettere i microfoni amplificati perché sennò innesca. Innesca perché è fatta per i camionisti, diciamo, dai. Aspetta, faccio vedere un'altra cosa con l'altra, se funziona, aspetta. Attento, Eugenio. Vabbè, ci sono un po' di matte. La cosa è cambiato. Non posso questo microfono tornare, non so tu. Aspetta un attimino. Vedi bene, te metto un'altra, ma con questa? Allora, te ne faccio sentire un'altra che però non arrivo alla stessa, agli stessi watt. molto molto meno, però la radio dovrebbe essere buona lo stesso, ok? Ovvero? Allora questa lì, 4 watt originali, un muretto questa però, eh. Sì, 4 watt, è proprio l'MRM, infatti, non lo uso quasi mai. Aspetta, che sono mi ascolti. Quella era una Seat SSB, vecchio stampo, anni, boh, credo 60. Uscita lateroce in periferia da una campagnola, però in un fosso. Ecco. Ok, avanti, buonasera. Tino, ciao, lo più forte, glielo usai. Che a te l'ho fermato. Quando? No, a noi niente, ciao G. Lo più forte. Eia. Sei gioco io. Prego. Alla grande, è meglio dell'altra, c'ha una modulazione più bella questa. E a voglia. Massimiliano. Sì, dimmi te. Ma allora state continuando? Noi abbiamo continuato, sì, perché il decreto per loro c'è. Ah, ecco, ma io devo andare lunedì e poi ci dobbiamo fermare. Perlomeno qua a Sassari è così, però già va bene. Va bene, ciao, siamo qua. Hai capito, Massimiliano? Noi stiamo facendo a Banova e quindi a quanto pare fermano anche la Inco. Strano devi fermi, no? Ma così è. Vabbè, ma mi va anche bene. Siamo in integrazione poi. No, ma è strano perché voi fate movimento a terra, capito? Quindi è strano che vi stanno fermando. Stanno fermando la ditta madre, quindi noi siamo in aiuto alla ditta madre, automaticamente, a mezzo non scappa di più. Ah, positivo, e allora vabbè. Sì, ci facciamo un po' di cosette qua a casa, c'è sempre da fare. No, noi ieri eravamo a Cosa, abbiamo consegnato l'aeroporto di Olbia. Già fatto? Già fatto, tutto a posto, tutto consegnato. Andare via. Vabbè, sono fermato anche voi, cosa se ne fanno l'aeroporto? Vabbè, adesso lo fermano l'aeroporto, però intanto nel momento io devo consegnare, poi. No, dico, era una battuta. Ci sono, già lo sai, sono le penali, sono consegne in tale data. Eh sì, andare. Poi se ci fermano ci faremo qualche giorno di ferie anche noi. Sì, vabbè, lì già è, insomma, una zona più, meno a rischio, diciamo, dove siete voi. Non sei in città, non sei a contatto con la gente, quindi bene o male, forse anche quello. Non sono a contatto con la gente, ma non sai quante persone c'erano lavorando lì dentro l'aeroporto? Oltre 500 persone c'erano, tutte zone Lombardia, Bergamaschi e via dicendo. Ah, beh, no, vabbè, io parlavo nella strada, eh. Ah, vabbè, nella strada c'è di meno, però sei sempre a rischio lo stesso, anche se sei nella strada, comunque. Un pochino meno, ma comunque già sei sempre a rischio. Poi dal momento che ti barrichi che sei dentro il mezzo, perché la mascherina è lavorata anche lì. No, se c'hai il tuo mezzo cosa ne vale la mascherina, tanto lo prendi solo tu. Infatti. È come io vedo tanta gente, no, che usa la macchina sua e si pone la mascherina, che senso ha quando si rasura, la usi solo tu. Vabbè, vedi, una cosa credo giusta, magari può essere i guanti, perché bene o male vai a fare la spesa, tocchi i carrelli, cazzo, non farlo, dal momento che ti sei in macchina tu gli tiri i guanti, perché se il virus l'hai preso tramite un carrello, per dire, o la roba che compri, lo stai portando dentro la macchina, quindi dal momento che stai entrando, che e ti senti lavorando sicuro che sei igienizzato, ma le varie, che altrimenti germi in macchina. No, una volta anch'io quando vado che entro a fare qualcosa, la spesa, carrelle, cose, i guanti sempre con la mascherina. Prima di salire in macchina i guanti me li tolgo. Appunto, voglio dire, non è che poi ognuno fa come meglio crede. Gava. Va bene. A dire che non ne trovo più mascherine, anche in cantiere sono finite. E non ce n'è, vabbè, adesso i cinesi ce l'hanno portato un bel po', però adesso bisogna vedere. E poi quelle a norma, devi prendere quelle a norma, e tutti a prendere quelle diciamo che hanno la di polvere, là, come ti puoi chiamare? No, io avevo quelle, quelle con la valvolina, però sono doppie, sia la strada esterna che c'è la strada interna anche. Devono essere F2 oppure F3, quelle sono quelle che ci voglio. Non ci voglio altro tipo di mascherine, quelle sono, allora. Prego. Avanti, chi è? Buonasera a tutti, sono Guantanamo Freccia. Ciao Freccia. Che io non lo sento. Ma mi sembra che abbiamo chiacchierato stamattina. Antonello Freccia, giusto? Antonello Freccia, Tino, lo conosci? No, io conoscevo un vecchio CB, Giovanni Freccia, ma è anni che non modula, questo mai sentito. E boh, non lo giaccio. Allora, mi sta modulando, perché non lo sento neanche? Lo senti, Tino, Antonello? Freccia? E boh, deve essere spento. Allora, io l'ho sentito stamattina ed era in zona di Via Buda, per il bar, in mezzo al palazzo, roba così. No. Io ti ripeto, vabbè, non so se te l'hai conosciuto, ma credo di sì, a Giovanni Freccia, vecchio CB, ma da anni e anni e anni, che lo mulla. Sì, sono più di 20 anni che lo mulla. Avanti il brecco, chi è? Avanti. Carico, sì, buonasera. Sì, con un altro apparato. Devo essere sincero, non avevo voluto vedere accendere la radio. No, vabbè, impegni lavorativi, quindi quel poco tempo che avevo a disposizione lo dedicavo alla famiglia, quindi adesso sono un po' più meno impegnato e niente, passo 5 minuti alla radio. Allora, se vuoi puoi rimanere tranquillamente, non so se Massimiliano ti ascolta, io sinceramente ti darei un segnale in basso perché ho una radio che è un po' rara di segnale, ma che ben mi ricordo io qua arriva a Santiago 4-5, non più forte. Massimiliano, lo senti tu? Sì, ciao Nicola, buonasera, lo sento, Santiago sì, ma giustamente se non si pone con questo portatilino la radio non è altissima, comunque lo ascolto abbastanza chiaro, ciao Nicola. Sì, ciao Massimiliano, vabbè io rimango l'ascolto, poi non ho neppure, poi c'è domani per vengo. Ma adesso ti sei spostato perché sei salito quasi a 8, vero? Sì, allora guarda, mi sono spostato anche qua, faccio spostarti di qualche centimetro e migliore il segnale, come mi dicevi adesso? Sì, Santiago quasi 8, prima di 6. Sì, guarda, mi sono spostato non più di un metro, guarda, va bene, dai, rimango già a ascolto. Lo senti a Eugenio di Porto Torres? Vai Eugenio. Salutando quello voi, io lo sento a livello di QRM. Va bene, dai, continuate pure, io rimango ascolto. Ok, ti senti a livello QRM o... Eugenio? Beh, Brittella. Beh, mia, ma è come me. Ciao, Tino. Beh, su, fatti curare, perché l'elicottero, guarda, non si è visto, e tu hai detto che c'era. Sono buono a farlo vedere, poi tutti gli altri vogliono uscire. Aspetta che salutiamo, ciao Nico, ciao, rimane in corrisso, è quanto ho capito. Attrezzati di antenna, combatti col condominio, fai di tutto, fai quello che vuoi, però ti devi attrezzare perché sennò qua si segnali deboli, sono, non sono ben ascoltati, purtroppo. Vabbè, Eugenio, Eugenio ti ascolta in mezzo al correme, ha detto, Riprendi Eugenio. Nicola, ti volevo fare una domanda. Ciao Luca, comunque, ben entrato. Ma hai provato un'antenna così messa sul balcone, ma giusto per una prova, un'antenna veicolare? No, negativo, perché non ho modo di procurarlo, perché non me l'ha presa qualcuno e poi la restituisco. Io non ce l'ho, sono travedata, ma era giusto per una prova, ma sono sicuro che arrivi molto più forte, e così non stai neanche fuori all'aria aperta. Sono sicuro comunque che arrivi molto più forte, giusto Tino? Vabbè, Tino magari impegnato. Luca, riprendi? Beh, io ho sentito basso basso, Massimiliano. No, qua gli arriva a Santiago 7, però il problema è che, ne stavo dicendo, provare magari con un'antenna veicolare sul balcone, magari con una base calamitata, e ci mette una piastrina sotto, 20x20, ci fa per una massa, e sono sicuro che arriva meglio di così. Anche così potrebbe fare, è vero. Ma ci sono quelle antenne piccole, già anche una mini boomerang. Ma anche una PLC 800, una 1000, su una base magnetica, giusto per una prova, no? Anche potrebbe fare così, è vero. Però vabbè, io non ho un'antenna Massimiliano qua. A casa già lo sento. E poi vabbè, ci vorrebbe anche un baracchino che abbia una criticazione più alta. Anche quello già è vero, ma sono sicuro già che mettendo un'antenna la trasmissione è migliore. Noi sì, alla 50, se la tengo 9 qua mi arrivi lui. Mi arrivi più forte qua che la casa tua. Pensa tu. E la 25, sono 50, qua non sono cui io vado. E come te Lucia. Ah, Lucia. Vabbè. Purtroppo va giù in cava. La devo costruire, adesso vediamo, ma cosa farò, dai. KK. E oggi riprendi. E anche a Luca senti, pure qua è 9. Luca, tu lo senti Eugenio? No, negativo. E vabbè, sicuramente non c'è il varco buono per lì, dai. Ma c'era anche questo Antonello Freccia, riprendi Antonello se ci sei. Claudio, avanti sul 10. Tutti ma se so, non sento nessuno. No, non ti ho sentito, sei a livello di QRM. Non ho capito neanche chi sei. Ah sì, Italia 1 la patata. Va bene, Monserrato, ciao, buonasera. Non so se ti ascoltano gli altri amici, Tino lo ascolti, la patata. Guarda, lo ascolto a un livello proprio QRM, impercettibile la cosa. Luca, tu lo senti? No, negativo, manca a lui sento. Sento a te, a Tino il buco. Vediamo un po' se lo sente anche Eugenio. Eugenio, tu lo senti a Monserrato la patata? Monserrato, sentite Eugenio che sta modulando la porta a Torres? Ma io QRM non ne ho, comunque da questa parte Massimiliano Bulldoze. Il tuo segnale qua è 4, la radio è 3, è un po' bassino, però comunque riesco a tirarti fuori bene, dai. Gli altri amici non ti ascoltano. No, io già l'ho ascoltato, però Santiago basso basso, radio basso basso, mi ha detto, volevo sapere solo la, come si dice, l'ho sentito il livello correre, Massimiliano, leggero leggero, ma sono riuscito a toglierlo fuori anche io. Ok, Monserrato, tu ascolti a Tino. Ho capito, dai. Va bene, salutoni, abbracci da lontano, 4-5 metri di distanza. Va bene, dai. Arrivo anche lì con un barattolino, figuriamoci. Ciao Monserrato, dai, la patata, ci sentiamo alle prossime, comunque. Se vuoi rimanere non ci stanno problemi, noi lasciamo qua. Avanti, Lupo Grigio. Lupo Grigio non riprende mai, Luca. Buonasera. Gianni, tu vedi. Ah, buonasera. Entri così, senza dire niente, apri la porta, chiudi. Cosa? Ciao Gianni. Ciao, mi trattava io, ragazzi, cosa mi state incolpando? Sono entrato in questo momento, ci sono adesso. Infatti non pensavo mai che ci fosse gente a quest'ora, invece c'è già gente. Vedi così. C'è ciao. Stavamo entrando, lo stesso, ma magari più tardi. E a che orario vi è aperta la radio già? Ciao, buonasera. Ciao, Massimiliano. Ciao già. Ciao Luca, ciao a tutti gli altri amici, dai, non so chi ci sia perché in effetti ho acceso adesso e ho visto che era già occupato il canile. Quindi, a proposito del canile, lo sai che sono entrato l'altro giorno dall'ospedale, no? Non c'è sapevo cosa fare, sono entrato su CP Talk. Ho detto c'è qualcuno in questo canile, cazzo si incatta questo qua, quando fare l'aria dice un cazzo, questo è un canale, non un canile, sei offeso. Ma perché c'hai ancora questa applicazione? Ma non ti lavori. Beh, ma si vedi all'ospedale non c'è il televisore, non cavolo, qualche cosa la dovremmo fare, no? Ah, è vero, è vero, ecco, per passarti il tempo, va. Allora, beh, alla fine me ne sono stato all'ascolto perché questo qua si è incazzato con io ho detto così perché non ho sentito nessuno, non c'è nessuno in questo caso che ha risposto Gianni, parla di essere un cazzo, ma va a fare. Buonasera a tutti. Ciao Gianni. Ciao Gianni. Mia Gianni, mica, dopo tanto è vero che ci voleva il coronavirus che fa entrare un po' di gente. Tutto bene, buonasera a tutta la ruota. Adesso non so in quanti tutto siete, come si dice. Ciao Tino Muscolo, buonasera. Ciao Eugenio. Ciao Gianni, mi sembra aver sentito Massimiliano con la modulazione che piace a me, buonasera. Ehi Lubraffè, ciao, buonasera. C'è anche Lupo Grigio, poi c'è anche Monserrato a Pattara, Sì, a Pattara, diciamo. Monserrato, sì. Ciao, Monserrato, mi ascolti? Ascolti lo più lungo, buonasera. Cappagaffa, dai, ti ascolto anch'io. Sono contento, ma sono liscio, non sto usando niente. Anch'io sono liscio. Mi volevo avvitare sopra, ma vuol dire che non lo senti. Attenzione, orecchie di porco. Continuate. Ciao Monserrà, 5859 come sempre, buonasera. E a chi lo dici? Non avresti domiciliare rottura di balle. Proseguite ragazzi, vi sto ascoltando non io voglia. Ciao a tutti. Ciao Monserrà, sono andato per salutarvi. Orecchie di porco. Di pollo. Serve poco male di Claudio. Fate, metto quel video, ragazzi. Ma se voi ci diamo un po' giorno per fare due sardini. Certo, dico. E non mi trovo un bucarone che ha fatto ci imbecille. No. Faccio qui. No, negativo, ho visto il video, ciao Cla. Ho visto il video, ma non... c'è il video, la foto, là. Ma non so neanche chi sia, bu. Io Facebook ce l'ho, mi non entro, ma ce l'ho, mi. Non vedi tu, Samar, che ha mandato quelle video di via Manzoni, di quello che stava arrostendo nel Poggiolo, e hai detto a Samuel se voleva andare alla rostita, non eri tu, a volte era la doia. Luca? Oh, dimmi Cla. Ho detto, non eri tu che ha messo quel video su Facebook di quello che stava arrostendo in via Manzoni? Via Manzoni, no Cla. No, non eri tu. Vabbè, vuol dire Luca Ponti che ve ne va. Aspetta, ma su Facebook dici? Ehi, cazzo mi ci può venire in italiano? Allora sono molto ragazzo cicciottello. Poi il rumore della matrice di mamma. Non so, Cla. Commentami. Senti, commento, e tu che li commentate, la voce era la tua. Luca ce ne conosciamo, con cui ci muniamo. Di questo lì, via Mazzoni, via Leopardi, cos'è? Samuele è amico tuo, me lo conosco anche chi è, quindi. Hai detto anche a Samuele, mica c'è la rostita, lo vedi, c'è un buongiorno, arrostendo. Che ha fatto il Vugaroi, a Giumani c'è di a tutto un barazzo. Sai che io ho messo il video della lavatrice e basta, non ho visto altro, l'ho messo e basta, quello con il casco, con gli occhiali, basta, con la mascherina. E commentami, così lo vedo, dai. Ma devo commentare, cosa devo commentare? E c'eri tu che stavi parlando, cosa devo commentare? Di questo che ha fatto, praticamente stava arrostendo nel Poggiolo. aspetto in tempo il coronavirus e ha fatto il fuoco, mi col fuoco nel poggiolo, cazzo ne avevamo, fiamma alta, stava accendiamo anche quello di sopra. E tu stavi parlando, come lo stavi commentando tu, adesso mi ricordo le parole. Comunque, io entro su Facebook, non ti preoccupare, sono incognito, ma già vedo tutto quello che mettete. Sono sincero, ma già arrivo, non mi risultava sta cosa, non lo so, forse mai l'ha messo qualcuno e l'ho commentato, non lo so, ma era la che cavia, io ho controllato non le ho, non lo so, e io ti dico di sì, non mi risulta. No, adesso non mi ricordo chi è che l'ha messo, tu l'hai commentato però, perché la voce era la tua, tranquillo che era la tua, adesso io voglio riaccendere, rientrare, mi sembra che l'ho anche salvato, l'ha salvato Ilaria, adesso non me lo ricordo. Io non che avevo fissa, alla grande, dai. Continuate, non voglio polemizzare. Ci sentiamo, sono qua, vi ascolto, ciao a tutti. Sì, Nicola, vai perché ti ascolta, ciao, buonasera. Io rimango in QRX. Scusate, devo rispondere al telefono un attimo, siamo dopo. Al telefono, è quella bionda che se n'è andata in spiaggia, visto la rete. L'hanno sanzionata, 206 euro di multa. Non hai visto cosa gli ho scritto? No, non le guardate i commenti, le stavo leggendo che la polizia l'ha multata. Ma adesso uscire così non Massimiliano, non si può fare manco comunale a casa, solo familiari. Solo familiare, non sta salendo manco l'aereo di Ilaria, niente, nulla, ognuno a casa sua, non si può, è più pericoloso così quando vengono a trovarti, si devono rimanere a casa, ognuno deve rimanere a casa sua. Confermo, ma io sono andato a prendere il pellet ed era già chiuso, alle 5 e un quarto l'applico era già chiuso, e quindi niente da fare, no? Avanti Giuseppe. Sì, la bionda che si è fatto il video che non può andare al ristorante, allora se n'è andata in spiaggia, capito? A rompere le palle, e l'hanno multata. Io. Avanti oggi. Giuseppe è tornato, non lo senti neanche a lui. Allora compati la casa a Sassari oggi. Ascolta, mi sorge un dubbio. Ciao Giuseppe. Ah, io qua a Sassari li sento tutti, vabbè, tranne a quello col portatile, ma tutti li sento, quasi tutti, dai. Quello col portatile è al telefono. Ma è strano, mio, oggi, è caso, Giuseppe arriva a 9, Luca arriva a 9, non lo so, è strano che non li senti, Eugenio, mettiti un amplifo. Giuseppe, tu lo senti a Eugenio? Lì, se ti senti lui, strano non lo senti tu. Ma le fighe già ce l'hai aperto di quella radio, sì. Signor Claudio, in fretta, la serietà. Signor Claudio, vuole fare le vecchie magliare? Claudio è un cuocuomale. Adesso fai da 6 a 9, Giuseppe. Da 6 a 9 qua da me fai, i picchi di modulazione. No, la radio è anche bella. Sta modulando... Oh, mi sembra sia la zona luci gialle, giusto? 6-8 picchi di 9. Luci gialle? Attaccato a casa, non lo ascolto quasi. Arriva 8 a picchi di 9, Giuseppe, arriva benissimo. Qua è 6 a picchi di 9. È strano, mi anche ti, è vicino a te. Siamo attaccati. Io, vabbè, lascio perdere lo smitter che ho provato, ma Santiago 5. Prova a cambiare la radio, non so mai, a volte la radio, perché io per esempio questo lupo grigio con questa radio lo ascolto e con l'altra non lo ascolto. Era per comunità microfonica, ritorno a mia via avanti, chiedo se sono sbagliato. Ah, Gianni, poco cambia, Santiago 7. Visto che lo ascolti allora. Ma anche prima lo ascoltavo, so che... con l'altro a Santiago 5, ho detto mi sembra strano che arrivi così basso in quanto siamo quasi attaccati. Ecco, doppio room. Eccomi qua, Cogliano, io già ascolto tutti bene, Giuseppe, ma poi sono vicino. Ciao Giuseppe, buonasera, dai, non ti tempo manco di salutare. E niente, mia sono tutti belli. Infatti, uno più. Compreso a Monserrato, che non so se ci sia ancora, se sia andato via. Monserrato ci sia ancora? Non risponde, probabilmente se ne andato. Vabbè, mi lascio aspettare Giuseppe, dai, avanti Giuseppe, tu fai girare. No, compro la lampadana. Mi abbiano abbassato a me, figura. Lo sento, ma abbassi. Ma adesso tu c'hai un antenino di vettura, così è, Giuseppe. Ah, ora capisco, Giuseppe. Ora capisco, ma tu sei dalla parte della strada del chilometro, diciamo, luce gialla. Ora capisco, magari è il scalato che ti fa da scudo verso la mia parte, perché io sono uscita alla veloce, diciamo, capito? Quindi andando verso Pratamona, subito dopo la uscita dalla veloce. Ecco perché ti ho detto, siamo vicini, ma con un segnale non ci siamo. Vabbè, comunque ti ascolto, non è che non ti ascolti. Ah, Gianni, non è che ci siamo un po' perfettati, approvato sovranulare. Ma Gianni chi se c'è, da me o a Gianni un profeta? Ah, io pensavo che era un profeta, no, io non voglio calpestare nessuno, perché? Un profeta, dove sei? Dove sei che non ti abbiamo ancora sentito? Ehi, ero qua in parcheggio, ha detto, va, se ne sono dimenticati tutti quanti. Ciao Giuseppe, buonasera. Buonasera Claudio, che è entrato, fatto capolino da voi, è sparito, vabbè, rinnovo i saluti a tutti quanti, e niente, dai, cedo il pallino a Eugenio, avanti Eugenio, vediamo. Deve essere che erano le romantismi, Giuseppe. Sì, ma è stata trovata a Napoli questa, c'è trovato, oddio, hanno, diciamo, trovato su un palato e poi hanno visto che faceva effetto e l'hanno diffusa sugli altri anche. Sì, sì, e a Napoli l'hanno individuato, diciamo, perché c'era una vicina che c'era già. Probabilmente questo virus aveva le antrusi. E speriamo bene, dai, speriamo che sia una buona notizia. E un antinfiammatorio che sta facendo bene e che sta facendo guarire diverse persone. Un antinfiammatorio? K-Gamma, un antinfiammatorio per le artriti. Ma non sarà un antidoto? No, no, un antinfiammatorio che serve per curare l'artrite che stanno usando. Ah, ok, no. Io faccio un po' di bianco, scusate, passo un attimino in quel Rix. Avanti, lo profeta. Ehi, mi stavo mettendo a posto le cuffie. Ero attaccato con le cuffie al televisore, non al baracchino, se no cazzo, mi hanno fatto assordo. Massimiliano, da quando ti ho detto che mi piaceva più la radio solita, hai già amato. Oh, scusate, anch'io mi devo allontanare, dai. Riprendi tu il gesto a girare perché mi devo spostare la radio. Scusate, ma... Ehi, aspetta che c'era Nicola, che voleva entrare. Avanti, Nicola. No, guarda, mi voglio tutto salutare. Poi vieni qua, passate al terrazzo e ci sono tutte le donne affrontate che c'hanno. Bene, bene, almeno dai, prendo un po' d'aria fresca e insomma, sono cose belle, dai, Armacugisu, come si dice qua. Nicola, penso, non so se è in terrazzo o sul poggiolo, niente, sta assistendo a gente che canta alla finestra, boh, così Nicola, confermi? Sì, sono nel terrazzo di casa mia, qua è il palazzo accanto, sto affrontando le donne che cantano in casa, ma probabilmente è una cosa nazionale, perché un altro deve spingere la compagnia. Ho capito, sarà quella sorta di flash mob che hanno fatto anche ieri, presumo, e quindi magari si sta proseguendo con questa sorta di iniziativa, questo tantama attraverso internet. Va bene, dai, non voglio monopolizzare la rotta. Avanti, signor Doppio Room. Ehi, dai, ciao, a chiamare un pomeriggio. Ma io ho visto che un DJ ha messo luce tutto quanto sopra il terrato all'ultimo piano e ha messo l'inno di Mavini. E poi ha invitato tutti a cantare, sono affacciati tutte le finestre cantando, eccetera, eccetera. Sì, è una cosa bella, dai. Siamo diventati patrioti. E cosa hanno fatto? Ma sempre privati? Ma no, questa faceva cosa organizzata, la disperazione fa fare così. Ma io ce l'ho, c'ho tutta la strumentazione, però non ce l'ho qua presente il QTH, ce l'ho da un'altra parte, se no avrei piazzato tutta la strumentazione su qua in terrazzo, c'ho 2-3 mila fatte di impianto, quindi è che fisicamente non mi è stato possibile. E tu basta mettere il cassetto più piccolo, va bene così. È presente, non è più cattissimo, ma è presente. E in principio è così, se no devi fare quel passando, devi praticamente fare un lavoretto e ti faccio un bel po'. Come esci tu, ce l'hai presente. Luca Manico, tu ce l'hai presente come esci. Ma comunque avevi presente l'altro giorno, quella presente, dai. Non è anche più cattissimo, ma è presente. E Eugenio, come questo stai uscendo? Allora, questo è il più 5 modificato. Ah, beh, non lo so. Apri tutto il microfono della radio. Metti il volume a 9, il tuo è 2. Prova a abbassarlo. Mettilo al 2. Per me non ha cambiato niente. Papa Tango. Papa Dottore. No, stavo rispondendo. Prova a aumentarli. Gianni, tu hai notato differenza, io no. No, manco io. Però detto, bisogna truccarlo, se no non va bene. Quello tuo, da quello suo, è un abisso. Come fai a dire che è il cattivo 41? No, vabbè, era per fargli vedere il... insomma, un po' così, se da normale al modificato che cambia. Va bene, dai, a dopo. No, esce così, se non lo modifichi, esce così. Guarda, la mattina ti accorgi dallo smitterino che ha, no? Va bene, ciao, ciao. Modificata c'è un bel bene. Mi sembra che bisogna chiudermi una resistenza che c'è da farmi l'attacco diretto. Cosa? Sempre ci siamo arrangiati qui a fare. Però me ne l'ho mai fatto, però un altarino che ce l'ha Luca, a Luca ce l'hanno fatta infatti. Insomma c'era un po' di gente, dai, ce l'hanno fatta loro, basta sapere come si fa. Non lo so se te lo dico, ma te lo dico, è una cazzata tanto. Ma guarda che ci bene, la voce è chiara chiara. L'altarino non lo so, forse è stato un mezzo. C'è un po' di casino con i vicini, capito? Sta un po' evitando, diciamo. Andiamo e facciamo la tenda. Il televisore e poi diciamo che cazzo. Intanto gli ha detto che lui è regola, gli rompono sempre le scale. Ma purtroppo sul petto, Giuseppe, glielo sento che se lo pubblichi, sai sopra andati a fare giusto. E infatti, ma adesso se ci fa le scomposte, lui è in regola, c'è un parecchio omologato, tutto. Era omologato anche quello di prima, ma non era cieca, capito? Lui pensava di essere in regola, invece no. E a lui è venuto un po'. Ma bella poi. Sa che ti sei anche verniciato. Le scarpe nuove. E vabbè, era per cambiare il colore, dai, sempre lo stesso colore, no, vabbè. Ma come hai fatto? Cosa hai rimesso il piede sopra per salire? Cioè, non ci voglio pensare. Poi dentro la macchina come hai fatto a entrare? Non sai manco come fai per dentro il casco, e quelle condizioni scusi. Se una volta la tavola è caduta a testa in giù nella scala, un po' come si ammanca. Perché gli ha messo la scala non pesce, non gli ha messo la parte dei piedi, invece di metterla in terra, l'ha messa su. E la parte che doveva stare su l'ha messa giù, l'ha capito convinto che l'aveva messa bene, è salito nella scala, e quindi si gira la scala e è rimasta a testa in giù. È un peccato con l'antenna, nuova, non l'ha mai utilizzata. utilizzata, non sta venendo utilizzata, capisci? Ci sono tre appartamenti, due sono dei fratelli e dei russi. Ehi. Ciao Giuseppe, vabbè, non so, forse ti ho salutato prima, ma non mi lamento, tra una cosa e l'altra vi stavo ascoltando e mi sono un attimino distratto. Ci siamo forse dimenticati in posteggio anche Nicola. Nicola, ci sei? Ci sono, ma entro di meno perché l'amico non mi sente. Io volevo fare una domanda, se lo sapete, magari ve lo puoi dire anche l'amico. Io non ho capito se posso farmi una passeggiata e verso in casa mia senza problemi. Voi ne sapete niente, capito? Adesso no, il sindaco ha messo un'ordinanza che non si può uscire. Per questo c'è un altro tipo valido e basta, non si può uscire né a passeggiare né a fare tutti che venire. Solo per motivi di estrema necessità. Così ha detto il sindaco. Poi lui ha messo l'ordinanza sull'ordinanza. Sì, c'è il cane, sì, però è giustificato, dovrei metterlo nel foglio che fa, che confina, che sta uscendo per portare il cane a fare i bisogni. Ma uno che va a lavorare ogni giorno, ma deve fare ogni giorno la sua certificazione, per la sua. No, vai. Ma che per caso polizia locale, interrogativo? No, volevo dire, fai parte della polizia locale, interrogativo. Giuseppe ha chiesto se sei un vigile urbano, ti rispondo io. No, Giuseppe è una guardia profila. Ah, beh, no, allora dimmi che io facevo parte di Piero Stupender, che lui non mi sente, no? Aspetta, si è sentato un attimo. Io una guardia profila, capito? Però stanno facendo servizio anche loro, i baraccelli. Un po' tutti stanno facendo servizio. Tra poco metteranno anche i militari. Se continua così, speriamo bene, dai, dice che hanno trovato questo medicinale che fa bene, che sta facendo guarire un po' di gente. Loro quando sono le sono agenti di polizia giudiziaria, come la polizia, come i carabinieri, e per esempio fanno i controlli, anche loro sono agenti di polizia giudiziaria, come se fossero carabinieri o poliziotti o vigili urbani. Mi senti? Sì, lo stavo dicendo, io sono un collega dei carabinieri in pensione da una vicina d'Africa. Ho capito. Senti, ma ti ringrazio, ma tu fai servizio a casa, l'interrogazione. Allora guarda, probabilmente ti visto ci conosciamo perché praticamente dove c'era prima l'associazione dei carabinieri, se non sbaglio c'eravate anche voi lì, come sede, interrogativo lì a parte dolce, no? Ho capito. Senti, ma da dove stai modulando adesso? Ah, ho capito, io via principessa Yolanda qua, lato vecchio che è impostato, ecco perché devo salire sul tetto, sul terrazzo di casa per poter parlare, no? Quindi allora scusate se monopolizzo l'ultimo atmosfera, allora mi confermi che non posso uscire a farmi una passeggiata. Se devo andare ad esempio domani a che mi finisce il pane, oppure devo andare in farmacia a comprare un po' di tachipirina o qualche altra cosa, oppure un DVD o qualcosa del genere, posso andare e naturalmente devo comprare e portare con me lo stoffino, giusto? Bene, io ti ringrazio e faccio girare la ruota. E vabbè, ogni tanto poi Giuseppe cambiano queste ordinanze perché se ne è andato da nuovo al sindaco, prima si poteva uscire anche a fare una corsettina, interessante che non eri in gruppo, potevi uscire, adesso assolutamente no, perché hanno appurato che quando esce uno escono tutti quanti insieme e poi si trova il gruppo eccetera eccetera, quindi è meglio evitare di farli uscire. Per cui il sindaco ha detto questo, che è meglio che non si esca per niente. Solo esclusivamente per cose necessarie, può fare. Ma scusate se mi interrompo, c'è mia figlia che lavora davvero e davvero già ci sono stati casi. Lo so, tua figlia ha tanti anche io, se non erro, vero? Sì, lo vero, lavora proprio all'ospedale di Alghero. Beh, lo so, purtroppo che nel sanitario non avete ricordato queste cose qua. Io ho fatto tanti anni di servizio ambulanza, 17 anni per l'esattezza. E ho portato gente con l'AIDS, gente con l'epatite C e l'epatite B. Ho portato di tutti i tipi di malattie, eppure grazie a Dio non ho mai avuto nulla. Il problema è un altro, se mi permettete, scusate, magari voi siete più informati perché leggete, ricordate che nei giornali che io mi rifiuto ormai di guardare. Ma quello che è una malattia cronica, come ce l'ho io, che avete infarto. E poi i medici chiudono gli ambulatori, come si fa? No, i medici gli ambulatori non li chiudono, fa entrare persone a tre, lasciate i pazienti fuori, li fa entrare a tre e mettono la banca da componente, di modo che non si contagino. Tranquillo che non chiudono gli ambulatori, non possono chiudere. Se chiudono l'ambulatorio è finita la storia. Gli ambulatori servono anche per filtrare le persone, se uno può dire c'è una tosse o una cosa, deve telefonare al medico di famiglia per dire che c'è questa roba, poi sarà il medico a verificare se deve essere ricoverato, se deve essere curato come un'influenza normale, eccetera, eccetera. Farà filtro il medico di famiglia o con un pubblico. Sì, ma il problema sai qual è? Che almeno in continente, in Lombardia, 70 medici, ripeto, 70 medici di famiglia si sono ammalati. Quindi c'è anche questo problema. Allora, comunque anche per questo c'è una risposta. Stanno assumendo medici, diciamo, che non sono ancora laureati, medici che sono andati in pensione, ginecologi, anche dermatologi, gli stanno insegnando a far fare la respirazione a chi ne ha bisogno, eccetera, eccetera. E stanno facendo cose al di fuori del loro ramo, però stanno prendendo anche medici che sono andati in pensione. Allora, se mi permettete, dato io una cosa che è perché, allora, quando un ragazzo si laurea in medicina, fa l'esame di Stato, diventa medico e poi deve fare la specializzazione obbligatoria. Però per fare la specializzazione è medico, ma c'è vero che viene pagato nella specializzazione. E stanno prendendo anche a questi ragazzi laureati che si stanno specializzando. Infatti a mia nipote che si sta specializzando in dermatologia, la vogliono chiamare anche agli ospedali. Ciò che ti ho detto adesso, va bene, mi prendi l'ubofeta. Eia, eia. Riprendiamo, dai. Ogni tanto ci dimentichiamo qualche pezzo. Tra vari passaggi e altro vediamo se c'è ancora Eugenio, abbiamo perso Eugenio, ce lo siamo dimenticati, vabbè, avanti Giuseppe. Mi stava facendo una prima volta. Vabbè, riprendo io, dai. Eugenio sicuramente magari si è spostato, c'era anche Luca, insomma. Sono sparpagliati tutti. Perché qua diciamo uno va alla propria, c'è che non dicono nulla, se ne vanno così, e come fai a sapere che c'è più? Si chiamano, poi se non rispondono si va avanti. Ma il problema è che abbiamo iniziato almeno a io ho sentito già dalle 17, capito? Sì, hanno cominciato presto con la coronavirus. Dobbiamo cominciare presto per andare in compagnia. Tu non parli, già mi senti troppo preoccupato. No, preoccupato no. Insomma, un pochino sì, un poco sì. Perché una cosa del genere non me lo sarebbe aspettato. Nessuno se l'avrebbe aspettato. Comunque sappilo che i diabetici, diciamo malattie croniche, siamo più soggetti a prendersi coronavirus, quindi non uscire da casa che forse è uscito. No, ma infatti non è il prodotto, sono una spesa costante, ho congelato anche il pane, e quindi per almeno una settimana non esco, poi vediamo, vuoi che mia moglie, vuoi che mio figlio. E però oggi da lavoro all'Enel, ogni giorno deve uscire e a contatto con le persone, capito? Purtroppo anche il popolaio stamattina è venuto con la mascherina e con i guanti. Il popolaio ha fatto la bombola e tutto con mascherina e guanti. E come l'ha visto un taglio, se lo si è visto la bagnata. Perché l'ha visto con la mascherina, lo stava rinviando. Vabbè, ma comunque speriamo che così è finita. Comunque, l'Europa, vorrei far notare che non ci ha dato neanche una mascherina. Invece i cinesi ci hanno riempito, hanno portato il vestito. Allora non è sentito ancora il giornale oggi. I cinesi hanno regalato all'ospedale civile di Sassari un apparecchio che serve per controllare proprio questo coronavirus, per controllare se uno è affetto o no. Hanno chiesto cosa serviva e la comunità dei cinesi di Sassari ha regalato questa apparecchiatura all'ospedale. Ah, ma la comunità cinese, quindi l'hanno pagato loro, nel senso, giusto? Esatto, l'hanno donato. Beh, guarda, i cinesi sono persone brave, ecco, diciamo così, ecco. Diciamo che io non ho mai avuto problemi con i cinesi, non si sentono mai cinesi che bisticciano, cinesi che non si fanno sentire, non sono come i senegalesi, come si chiamano gli altri, la razza che sono toccati in Tibet. No, comunque i neri si bisticciano proprio di Sassari, questo e quell'altro. I cinesi non si è mai sentito una cosa del genere. Esatto, tu sei non mi veniva, è nigeriano. Quella è una razza più cattiva, sono tutti spacciatori, mettono in mezzo la prostituzione, tutte queste cose qua. Invece i senegalesi sono la razza più in gamba, sono più bravi, là. Sono quelli che vendono, ci pensiamo noi per vedere, ci hanno usaglie e vivono così. Sì, sì, è vero, ne conosco parecchi di questi senegalesi, no, degli altri non ne conosco, ma i senegalesi sì, sono brave persone, vendono, magari con un po' di insistenza, però sempre nei dovuti modi, educati, e non fanno mai così, almeno con gli italiani. C'è il padre di Bocconietto che fa il sassarese è meglio dei sassarisi. Quando lo trovo a frattare un amico, io bene no, chi è? Che so che intruscia oggi, io, bene a non parlare di altre cose. Già che è vuole sta parlando basso? Cosa lui? Che vuole sta parlando con te? Chi è? Un pomiccio. Ah, basso. Da te sì. Il padre di Bocconietto. È simpatico poi Giuseppe, simpatico, sta sempre scherzando. Ecco, io sono un padre di poco niente, tu sei un padre di poco bianco, allora ti pigliamo a frattenti, andiamo a dirti una cosa. Sì, c'è tutto il Sassari vecchio che è pieno. Non si può stendere manco la roba perché rubano pantaloni, tutto quello che stesse lo rubano. Quindi immaginati chi si affari con gli italiani, perché quella stata la roba, va a prendere i pantaloni, non trova. Un amico mio l'hanno preso lì, che si rubi. Abitavo al primo piano e gli hanno fregato il pantalone. Eccomi, c'è che vai, c'è che viene, Luca scabuzza ogni tanto. vabbè, volevo dire una cosa, però adesso mi è passata in mente, appena mi si rinfrescano le idee vi dico quello che volevo dire, però per il momento ho un piccolissimo vuoto di memoria. Niente, boh, rilascio la palla a Luca, avanti Luca. Ah, già, questo vuoto di memoria da quello che ho avuto, No, sto guardando, c'ho il computer acceso, stavo spippolando, insomma, su internet, stavo leggendo un po' di roba, capito? Ehi, Giuseppe, aiuto, mia paranoia, mamma mia, mia paranoia, tu dai, no? Io mancavo il computer, avevo un telefono di ultima generazione, ma noi, non siamo già qua, prendiamo un capo, casino. È la corrida, non fare! Ehi, aiuto, ma Giuseppe, anche voi avete chiuso? Ah, ecco, via, è proprio un casino. Grande. Vabbè, detto domani c'è una roba da fare, dai. Domani mi faccio una torta con ricotta fresca e un po' porta l'arancio, porta di limone, mezzo e mezzo. No, l'avevo già fatta, dice, no, buona, no, di più, buonissima. E non è macchina, la prima cosa che faccio, faccio colazione, vabbè, quello è... quella è la prima cosa, e poi quando è dopo inizia a fare la torta. Giuseppe, che gente girare se ne è vedi? Oh Giuseppe, ma gente se ne è vedi? Buone. No, ricordate, va, buone, buone, buone, buone veramente. Vabbè, perché ti ce l'hai in giro per stare a fare il servizio? Mi fanno bene un cazzo. Certo che il bar è una cosa necessaria, per me potrebbero anche non esistere. Ma... un caffè, un cappuccino me lo porta a casa e la mate si torna. Ecco, a me mi fa piacere se dopo un amico andiamo a prenderci un caffè, ma non è che sia un abitué del bar. I barboni chissà come fanno adesso, che non li passano manco da mangiare, perché i volontari non stanno uscendo e voi li fate. Io Giuseppe penso una cosa, oltre alle persone normali della città che ci sono anche questi extracomunitari che non si sa se seguono le regole, queste persone qua, questi nigeriani, questa gente qua. E questa gente qui è pericolosa, E non li fermate. E vabbè, quelli lì magari è qualcuno che si è sposato con un altro colore, vive in una famiglia normale. Ci sono anche a Pontotole, ce ne sono, che vivono praticamente con pontotolesi, sono sposate con pontotolesi, c'erano figli curati, eccetera. Ma quello è sono famiglie normali, capito? Il brutto è quando questi qui che sono tutti a rischio, detto in modo sassarese, che non si attengono alle regole, capito? Sono persone selvatiche, cosa ti posso dire, quindi anche quella è la piaga da risolvere, perché ci stanno invadendo, Sassari Vecchio non prende più nessuno a casa perché tutto il mondo di questi di colore. Davvero che provoca, una bomba che ce l'hanno fatta. Ah, vanno nei locali, però non sono, quelli sono indiani, quello Giuseppe. Sono indiani, vanno nei locali, vedono per dire una commietta e ti chiedono di comprare una rosa per la donna, capito? Sarà tipo la volta che di notte sono entrati con il fornitore che c'è proprio di fronte a dove l'ho finito. Era pieno di quelle bagasso, come mi hanno visto cominciano a correre, forse dall'antenna si sono spaventate. Cominciano a correre una di due strampate. Vale, guardate che ci siamo fatti. Con carità. E vabbè, quando eravamo ragazzi eravamo fatti, andavamo a scuola per fare, ma poi se ci pensi bene, poveracci, fanno anche te. Aspetta come lo chiamavamo. Se mi viene la parola te la scusate un attimo, posto io ti devo salutare, cambio. Ah, ciao, buon pomeriggio, dai, sta andando via. Sì, mi ha chiamato mia moglie di scendere, perché la rete è leggermente più gentile qui dal terrazzo. Va bene, dai, ci sentiamo alle prossime. Un saluto circolare a tutti, cambio. Ciao, Giuseppe, stammi bene, non ti preoccupare che vedrai che domani ti alzi e ne risolvo tutto, vai. Giuseppe, avanti, comunque la parola la buttano tutti. Che fai se vorrei mancare la sola, Giuseppe? Davvero? Oh, yeah. Oggi proprio ho sfrontato, lo sai che mi sei un po' aperta la finita, ho sfrontato troppo, sono stato proprio in piedi. Ehi, lo so Giuseppe, ma la casa non la posso lasciare a casino, qualche cosa la devo fare, eh? Per forza, stendere la mano alla roba, eccetera, è un casino. Così sto facendo, mi si è appena appena ma un punto forse non era attaccata bene ancora, adesso si sta di nuovo facendo la crosta. E mi sto mettendo Yellow Silver Spray, quello che contiene argento, è quello che si mette nelle ferite e le operazioni. No, mi hanno tolto, avevo le gambe, non i punti, le staffe e tutto, cioè, con quelle gambette tipo quelle che ci mettono per chiudere delle scie sotto le sedie con la roba, però sono un po' più grosse. Me ne erano poche che vanno a scendere all'ospedale, capito? Poi mi hanno messo dei cerutini piccoli piccoli in ogni punto dove ho fatto la... e poi un cerotto grande, solo che a furia di sudare e cosa, prima è uscito il cerotto grande, poi sono usciti piano piano quei cerutini piccoli che mi hanno messo. E quindi è normale, non essendo protetta, basta che tu la sbatti da una parte, qualche spigolo, qualche cosa, si mi apre. E fare glielo posso, non c'è problema. Però glielo posso fare io, non c'è problema. Mi metto una benda e poi mi metto il cerotto. Ma anche l'elastico delle mutande, perché è lungo sino a su, capito? Dopo il passare la seconda mutante stringendo, è proprio quel punto lì che si è aperto, magari è il fatto che stringeva dopo quello. E vabbè, adesso già ho risolto. Non ho messo un paio di cazzo di cilicotti, non vedo io. No, speriamo che ci diano buone notizie, dai. E stanotte ci dicano che è stato risolto il problema. Il problema è questo, che noi magari lo risolviamo e poi gli altri paesi se ne stanno fottendo un po' le scatole, perché ha detto che la Francia ha detto che non farà come l'Italia, assolutamente. Sì, ma infatti, ma lo sai cosa c'è? Che in Francia lavorano anche molti italiani, mi capisci cosa ti voglio dire? Magari l'italiano va in Francia, poi torna qua e sempre una volta in gira. Sì, e non avevano detto nulla, avevano nascosto tutto, questi bastardi. Io sono ancora qua comunque. Ma va! Dico, sono entrato per dire che ero posteggiato. Vabbè, niente, no, era giusto per farvelo sapere, niente di più, niente di meno, dai, era... Dai, comunque io mi sa che mi allontano, dai. Proseguite, nel caso magari provo a entrare più tardi. Dai ragazzi, ci aggiorniamo, grazie alla chiacchierata per adesso, eventualmente magari ci sentiamo dopo, dai. Già, io non ti ho chiamato per il detto che stavi guardando roba al computer, quindi non ti ho disturbato. Quando ti ha chiamato Luca ti ho detto che stavi facendo cose al computer, quindi non ti ho richiamato per quello. Vabbè, là, non c'è problema, se puoi stare non c'è problema. A parte Giuseppe. No problem, tranquilli, no problem, non è successo nulla. Dai, magari ci sentiamo più tardi se coincide, ok? Va bene. Ciao Gianni, ciao. Mi stanno bene, buonanotte, dai. Avanti, Giuseppe. Non so Giuseppe, lo stavo pensando, che servizio che fate voi, non essendo armati, se vai incontro a qualcuno di quelli prepotenti e cosa, secondo chi è, quelli che c'hanno quei piccoli, per i russici e spacciatori. Lì non vogliono manco fermarti perché sono prepotenti, da una liuga. Sì, lo so che c'è, però nel momento, capito? Io ti dico solo una cosa, che ero col mio cane, con la museruola, con il taglio, la museruola gliela mettevo perché il mio cane non ama essere accarezzato da gente sconosciuta. Se vai a accarezzarlo e non ti conosce, ti salta addosso. Quindi io per evitare malumori eccetera eccetera gli mettevo la museruola. Beh, questo tipo è scappato al padrone che ce l'aveva per la maniglia della pettorina. Stava parlando con uno, gli è scappato, si è avventato a Tyson è andato a girarsi, però aveva la museruola. E quindi non ha potuto difendersi, capito? È fatto sta che l'ha forsicato prima la coscia, poi l'ha preso con tutte le fauci che aveva, cazzo, gli ha preso l'orecchio e la gola. E praticamente c'è una ragazza che stava parlando con me quando l'ha forsicato, che a sua volta aveva un pitbull, però è tranquillo quello lì. E mi ha aperto la bocca, è riuscito a aprire la bocca, se no me l'ha ammazzato. Ma se c'è una cinghia per tenerlo come guinzaglio, c'è una cinghia. Quello lì è uno spacciatore, non mi ha fatto 120 euro di danno, non è tanto per il danno, è quanto perché io sono molto affezionato, mi ha fatto male, vedevo con sangue, se si scappi qua da dove è uscito, non può essere uscito dal veterinario, è un pesce brutto nell'orecchio, l'ha curato, poi per crescere il pelo dopo le l'ha mangiato per vedere cosa andava la cuccia, c'è un pesce un altro fuori. Ci hanno andato con la fattura, a casa sua, questa è la fattura, c'è il bancale di mia sorella, già te lo paga, non c'è problema. Guarda, io venivo a casa tua e questo giovedì non è mai venuto. Io l'ho trovato in Italia, ho detto, ma va a fare altra gente, ma qui 120 euro che mi devi dare, che ne si cazzo se dici. Signor Giaggio, mi dico io adesso mi sto lavorando, come non volo, e cosa che te lavoro. Tu già gli ho detto che dare un rapidotto spacciato. Ma lo stavano dicendo che volevano fare così. Io invece quella razza lì proprio le avrei abolite. Un periodo stavano dicendo che quella razza lì non si potevano più pacificare, non so se erano voci che c'erano in giro o se era una cosa veritiera. Però dicevano che quella razza lì, il dog argentino, il pitbull, il cane corso, tutti quei cani lì, il rottweiler, tutti quei cani non si potevano più fare così. Ma se uno l'ha portato a passeggio il cane, di colpo il rottweiler si è girato verso il padrone, ha cominciato a morsicarlo, l'ha trovato morto in terra il padrone, capito? Tutto sanguinoso. La moglie stava aspettando che tornasse a casa, mi stava per tornare, è sceso giù a vedere e ha trovato il marito e l'ha portato in sangue. Allora, no, non avrete tenuto, non avrete tenuto in casa, ma è un pericolo. Perché secondo me hanno l'istinto, Giuseppe, hanno l'istinto. Ci sono quelli che proprio li abituano a morsicare, li attaccano le camere d'aria all'albero, li fanno attaccare, poi li tirano e loro non volano, ma se ti ammazzo, tipo i pitbull e quelli, quei cani quelli tipo che fai, il pitbull, la droga argentina. Li tirano e loro stanno attaccati con la dentatura fino a quando vogliono loro. E non volano, rimangono sospesi nell'albero come se fossero impiccati. Così sospesi. È come il maiale, la stessa cosa. Il maiale tipo si cresce, sente l'odore del sangue e si è fregato. Meglio che lo ammazzi. Il mio te l'ho detto, io lo conosco come è fatto. È un cane bravissimo, ti dà il cuore, guarda, se ti conosce ti fa mille feste. Ma se non ti conosce, infatti la gente quando dice posso toccare, no, assolutamente. Se non mi conosce, ma sai cosa devo fare? Devo accarezzarti per far capire che sei un mio amico. Allora viene e ti fa le feste. Guarda, penso, ma ha capito che non sto bene. Da quando io non sto bene, lui è sempre vicino a me, non si muove di un millimetro. Capito? Si mette vicino a me, vicino al letto e sta con i cartolini fino a quando io mi alzo, poi quando mi alzo si dice e mi rappresso. Posso andare in bagno, ti seguo in bagno. Sì, poi viene mi lecca. È una cosa, guarda, mi manca solo la parola, penso. Poi lo sai cosa fa? Io gli faccio e lui, mi risponde, e lui mi risponde, l'ho fatto sentire a parecchia gente, anche a Natalia l'ho fatto sentire. Sì, l'ho visto anche io su internet. Sì, ce ne sono tanti che si adeguano a quello che fa. Lui per dire, Tyson sa che io mi faccio un riposino dopo un pranzo abitualmente, no? È proprio un'abitudine che io da piccolo mamma ci diceva, perché le donne prima avevano molto rispetto per i mariti, adesso magari un po' meno. Mamma ci diceva, andate tutti quanti a letto che riposate o no, perché vostro padre è stanco, è tornato al lavoro stanco e deve riposare. Voi state a letto, ma non voglio dormire, tu stai a letto lo stesso, non deve volare una mosca. Così ci diceva. Poi mamma per ricordo dopo. Era proprio vecchio stanco, aspettava mio padre alla finestra, quando lo vedeva rientrare subito li preparava l'asciugamano pulito, gli metteva il minestrone nel piatto, quindi se c'era il minestrone o la pasta. Quando arrivava andava a cogliere la porta, gli dava il bacino e diceva, beh, com'è andata la giornata Mario, subito è. Ma se usciva uno non usciva l'altro, se non usciva uno non usciva l'altro, era nel tuo macchino a Maria. E poi mi ricordo una cosa, prima di mangiare si recitava la preghiera. Idem. E non si brontolava, a parte quello. Mamma faceva sempre, mi ricordo, lavamani di pasta asciutta, capito? Ma senza problemi. Facevo lavamano umano di pasta asciutta e tu quanto ne volevi ne mangiavi. E se avanzava la sera si scaldava con un po' di burro. mica qua, non è che ci buttavano via, ma ci tirava lì tutti. Sì, è vero, è vero. E tutto, anche il burro, se tu facevi la pasta al burro, il sapore del burro lo sentivi, ma c'è ora ci senti, o pasta al burro non fa più a fame perché non c'ha sapore di nulla. È vero, è vero, è vero, io me lo ricordo lo stesso che faceva un po' di panna, però mamma lo comprava a scuso. La signora Michela, che era un mal tagliato, lo comprava, non so se te lo ricordi quella lattina. E allora, poi vedevano quello che piaceva Farfano, che sembrava che Farfano sia un'altra cosa. Ah, quando era tirato. Capra, e se no, con i giubbi, c'era presente la scuola elementare San Giovanni Bosco, quella che c'era vicina che è dentro la prima. Il nostro gioco, sai qual era? Prendevamo un pezzo di compensato e attaccavamo uno spago, poi ci spingevano e scendevamo le scale, tanto col pericolo di farci male. Allora, ecco, da dottore, proprio in velocità, cavolo. E il nostro gioco era uno di quei giochi, era quello lì. L'altro era il monopattino, partivamo dalle scuole elementari, anche un po' più su delle scuole elementari, dove abitava Costanzo Chirchi. Partivamo da quel marciapiede e arrivavamo, sì, la tutti di gomma, andava. Io invece facevo il ferro, il fil di ferro, col cerchione senza copertone. E mi pugna a giocare, e ho capito il gioco che facevo. E quando ci divertivamo, facevamo le gare con quelli, o a Pallucci, o a Figurine, o i ragazzi l'avevo fatto. O che mi disoccupi lei, e mi ricordo anche quello. Poi qui là si giocava a sudi, a vedere che si avvicinava di più al muro, con le 10 lire. Cappa cappa, a Pallucci, lui c'era a Fossetto, facevamo i buchi nella terra per giocare a Fossetto. Tempo! Perché sono tutti attaccati al computer, sono tutti rincoglionati ragazzi. Sono tutti attaccati al computer, stanno tutta la sera, sì, si sentono con gli amici, magari non possono uscire adesso, è anche bello perché fanno le videochiamate, si sentono con gli amici e tutto quanto, però stanno troppo attaccati a questo computer, bisognerebbe limitare le cose, cioè fare un po' e un po'. Invece mio figlio per dire esce il sabato con gli amici, poi tutta la settimana sta studiando e al computer, boh, non fa niente. Oi, oi. E quando attraversano la strada senza guardare, con il telefono in mano, guardando e attraversando senza guardare se ci sono mani. Se non ti perdi tu, si chiudi. E lo so, però mettono nei casini anche gli altri, capito? Il problema è quello, che se li bolli il gioco ti mettono anche nei casini. Non ho trovato parecchi così, no? Io non l'ho fatta cagare sotto, io sono andato il crasso. E io dico, ce l'è presente il Giuli quando esce dalla scatola, così ha fatto, con le mani, cazzo, e poi adesso che fanno le macchine elettriche, che non si sente il motore, se non guarda non sono fregato. Io, allora la mia vita ha comprato furgoncino tipo Fiorino, è anche più grande del Fiorino, c'ha molto più spazio, però è tipo Fiorino così, elettrico, della Nissan. E quando lo stavo guidando io avevo paura di dire credimi, perché è un furgone che non si sente il motore, io lo chiamavo silenzioso. Ma nel prete silenzioso, perché ha versato il Ducato, l'ultimo tipo che ci avevamo, e ha preso quello, perché dice per i consumi, per tutto, è meglio elettrico. Ma io non ci faccio molto affidamento sulle macchine elettriche, perché è molto elettrico, con l'umidità è un casino. Se l'ha fatta a me il mio collega, ero pulito, magari l'ha preso comunque, è passata a fianco, non va così tutto, mi sono cagato sotto, passare la manetta, dice ma c'è voce a ridire, ridi, se mi fai il gioco uguale, dice Giuseppe ma se accendi lo stereo, quando ti cura, se devi andare a Cagliari, affidamento ti può dare questa mano. Noi ai granai abbiamo fatto le colonnine per i clienti, ne abbiamo una per caricare il nostro e poi abbiamo fatto altre tre colonnine per i clienti, quando vengono a fare la spesa che la macchina elettrica la può attaccare, mentre fa la spesa vi carica la macchina Poi quando scende giù c'è l'altra mappa quella che cade. Ma no, io me l'ho presa di nuovo a gas e benzina. GPL e benzina, va benissimo, a GPL cammina come una schiccia. Io invece ho preso la tipo, però poco, la tipo 16 valvole, 120 cavalli, e benzina e GPL. Io ce l'ho nera con i circhi lega, come lo volevo io, Bruzzo, dai. Me l'ho presa proprio a mio gusto. Costa una barca di soldi, ma l'unica cosa che c'è è che pago troppo di buono, perché consumare non consuma molto al gas. A benzina va bene, però a gas è abbordabile, dai. È che il bollo costa un po', per pagare 290 di bollo. Ma io pensavo che per 1.400 pagassi meno, capito? Ma me l'ho detto, allora il primo bollo che ho pagato l'ho fatto per 6 mesi e via. Dopo ci da arrivare qui a farlo a gennaio. Ho fatto a gennaio, cazzo, mi sparavo questa cifra. Sono arrivato a fare, ma è sicuro, non è che mi ha messo anche il carrello. Io già potrei forse cercare di non pagare. Nel senso che con la legge 104 potrei non pagarlo. Però bisogna vedere se ci rientro, non lo so, bisogna che mi fuori. E tanto io sono pochi. Se mi toccano quei soldi del bollo, io sono su un calese, insomma. Sì, il campo non so, si paga poco, me lo stava dicendo un tipo a Platamona, un giorno stavamo parlando, ha detto io guarda non c'ho manco macchina, io uso il campo, uso tutto, se voglio vedo una bella giornata, prendo mia moglie, ce ne veniamo qui alla rotonda, mangiamo, ci prendiamo un po' di sole, cioè, è una persona che sta molto, molto lì a Platamona, nella rotonda, c'è. Cioè. Sono una crepetta, si trovano tutti lì nella panchina e cose, e parlano, parlano, loro c'hanno il campo e poi se ne tornano a casa. E infatti poi troppe tasse, troppe cose, lui lascia tutti. La casa come è bella ti dà anche delle spese, invece il campo è diverso. Il campo non paghi tasse, non paghi nulla, paghi poco di pollo anche. Non lo dire a me, quando ho preso la casa a Platamona, ogni sera c'era gente, cazzo stavo spendendo l'anima di soldi, alla fine ho detto, beh, non ho detto, io facciamo pancetta, chi ne vuole le mangia, se no, e non devo stare a spendere soldi in carne, questo e quell'altro, ogni giorno c'era gente. Prima non dimenticavo che come se hanno saputo che c'è la casa lì, ti libera ieri. Guarda, tu a me la compagnia piace, ma quando è troppo è troppo. Io lavoravo, avevamo preso la casa lì perché ho detto, io sto lavorando, loro erano in ferie, giusto che i bambini prendono un po' d'aria. E niente, io quando tornavo da lavoro ce ne scendevamo un po' in spiaggia a prendere un po' d'aria, poi stavamo di notte così a parlare con i vicini e cose del genere, ce ne andavamo, poi come non saputo che ci avevamo la casa, prima uno, poi l'altro, poi si è passata la voce, mi già c'è la casa al mare, e tutti i carri finiti, non c'è più pace, capito? Quella tranquillità che stavi acquistando, poi a me mi piace la compagnia, ma cade troppo in giù. E ma infatti, io guardo un amico che aveva un camper, e ci aveva anche il bombone per andare a gas, se l'aveva messo sopra la capota. E praticamente era sempre in giro, girava, aveva conosciuto questa compagnia di camperisti, era amico di tutti, facevano certe tavolate, si divertiva la cosa, e poi abitava qua vicino in Viardara e non gli piaceva l'ambiente, alla moglie, perché ogni tanto gli bussava la porta alla polizia, la sbagliavano, andavano per arrestare gli spacciatori, cose del genere. E bussavano di notte, si è spaventato un paio di volte. E fatto sta che mi ha detto, no, no, da qui ce ne andiamo, io in questo ambiente non ci voglio stare. E si è dovuto vendere il camper per comprarsi la casa. Ma lo sai quanto lo rimpiange? Sempre, sia lui che la moglie, tutti e due, cioè, c'eravamo tante di quelle amicizie, stavamo per di qua in Greta, facevamo certe tavolate lunghe, penitenti al mare, di tutto di più. E ci credo, ci credo. E diventa una comunità come quella dei cani, no? Ti fermi con le persone, adesso vabbè non puoi farlo, ma normalmente io mi fermo con ragazzi, sembra che ci conosciamo da 50 anni, siamo anche un'ora a parlare dei cani, di questo, dell'altro. Mi fai come una comunità, come se, se ti conoscessi chissà da quando, da più. Sì, ma infatti. Poi c'è tutte le comunità che se ne capano, non è più come prima, c'è tutto. Una cosa, cosa c'hai? Anche la verana c'hai da fare. Ma questo qui si guidava la ciclo. Un 35 quintale. Ecco. Aspetta già che c'è un break, allora. Positivo, sono andato un attimino, vedo. A ping pong. Sto uscendo male. Sto uscendo male. Eia. Satura la mano. Giuseppe, mi ascolti? Passo, passo. No, adesso vai bene. Passo, passo, sono già. No, adesso vai bene, Massimiliano. Vai meglio, dai, non è compresa come poco fa. No, non sei pazzo, dai. E forse Giuseppe dice così perché con l'attenzione magari dice così. Forse ero troppo vicino al microfono, va. Sta pagando. E finché poco, se me la niente, dopo non c'è più nessuno, come hai fatto bene, per fatto entrare, non è che... Non è che abbiamo fatto tutto il tempo, ho sentito e ho fatto entrare subito. Sempre pronto là. Sto scherzando, sto scherzando, stavo ascoltando un po'. Io mi sono allontanato per altri motivi, quindi poi non ho più ripreso. Abbiamo variato molto con i discorsi, siamo andati dai vecchi tempi quando ci offrivamo il monopattino, a parlare di campo. Ah, ok, ok. Va bene, va bene, avanti Giuseppe, mi ascolti adesso, bene, meglio, KK, no, io invece mi ho preso la roulotte, per il momento nessuna perché l'ho presa l'anno scorso e quindi la sto un po' tutta rimettendo in ordine, dai. Ma è abbastanza grande la mia, perfettamente ragione. Io ho due letti matrimoniali, una poca e una prua. Per il momento piccolo. Esatto, la mignolata, ma come funzionano gli elettrodomestici? A batteria o li devi attaccare? Ah, ok. Quindi c'hai un serbatoio del gas separato. Ah, ecco. Ebbene, ebbene. E poi vuole quello non avrebbe bisogno. Dopo 10 anni ci devono revisionare, vabbè. Ma suppongo che tu 10 anni non lo tenga, che tu sei sempre cambiato come campo. Sta trabasso lo prendi. Piano piano, piano piano, non ce n'è problema, metteremo anche quello. Però il mio va anche a 12 volte il frigo, che la mia c'ha il pannello solare sulla cappotta. È giusto così. Poi vabbè. Già vanno bene queste cose, là. Si prende una piazzola. No, io ho valutato molto perché con la macchina, per esempio, cosa ti posso dire, più sganci e con la macchina poi vai, ti fai la spesa, ti fai un giro, capito? Invece col camper sei costretto a portarti uno scooter appresso o qualcosa per spostarti. C'è il posto sotto casa tua per me, no? Io allora già va bene, se c'è lo spazio. Io non saprei dove per mettermi vicino a casa, è un casino. Una cazzata. Tu devi avere la passione, deve appassionarti la cosa. Io per dire, ho fatto il campeggio. A me non piace, sinceramente. Non riuscivo a dormire la notte, non dormivo brutto. Me ne andavo a fare pesca sciubacca la notte perché non riuscivo a dormire. Domani si alzava e mi trovavano tutto il pesce. Campeggio è bello già. Bello sì, perché io mi ricordo che avevo questo per i ragazzi e cose del genere, però non riesco a dormire, non riesco ad adattarmi a dormire in tenda. Perché si è abituato nel letto, però secondo me il campeggio è più bello sia del camper che della roulotte, di tutto, ti diverti di più. E allora ringrazio pure l'estate. Sì, ma qui c'è fai amici, che cosa è bello per quello, perché sei tutti insieme. Però con la più sa adesso che ti dice come si fa. Me lo auguro proprio, me lo auguro. È un casino, Speriamo che sia solo una cosa di passaggio, che ci siamo allarmati troppo, ma con tutti i motivi che ci sono stati, con ragione non si allarma. Sì, mi sto guardando un video. Penso solo nel tamburo dei candelieri, c'è cioè sulla mascherina. voce mezzo robotizzata, non si capisce una cosa si dice. Forse dice che sono ammodulati, vabbè. Ciao, ciao, ciao, dai, buona carica e alle possibili, dai, ci vediamo. Infatti non ci vediamo. Ciao Giuseppe, buona carichetta, buon tutto. Va bene, va bene. No, stavo guardando un video, non sanno cosa fare e si sono portati a suonare i tamburi della, le cose, no? Dei candelieri. Quel DJ non l'hai visto cosa fa? Un DJ, non so se si accorge, se è continente. Ho visto il filmato, ha messo le luci sopra la terrazza enorme che ci aveva, ha messo la console, tutto quanto e si è messo a suonare. Ha messo l'inno d'Italia, ha messo altre canzoni, uno ha suonato Pino Daniele, insomma, tutti cantavano alla finestra. Adesso te ne mando uno su WhatsApp, guardalo. Cappagallo, e poi anche qua, in via Nubi, quando è a Franchieri, lo stesso hanno messo l'inno d'Italia. Ma questo fa ridere, guardati, te l'ho mandato su WhatsApp già. Guarda che ho anche fatto un cambio. Guarda se ti piace quella grigia. Voglio ancora di cavolo. Se ne sbaglio si brucia la mano. È proprio fuori di testa. Ora di cavolo. Ma capo quando l'ho guardato non lo rivendo. È allucinante. Hai visto quella di sotto già la foto? Kappa. Questa nuova è. E in cambio di quella là ho fatto. Sempre la stessa persona. Ah! È bello, sì. È bello, Questo che sto usando, Però dovresti regolare una chicchina, abbassarlo appena appena, perché è troppo compressa. Guarda, l'ho abbassato un pelo, guarda se è meglio così. Prova a fare un passaggio lungo e allontanarmi dal microfono. Ehi, sono già tutto braccio già, guarda un po', 1, 2, 3 prova. Così ha chiarificato un po' di più, dai. Ancora appena prova. Guarda, ho abbassato leggermente il microfono, guarda un po'. Sì, adesso va bene, così. Così questo passaggio forse era troppo forte magari. Sì, aspetta un secondo. No, ve lo stavo facendo un po' di amici col DJ. È forte, gatto, come fa la gente a avere questa fantasia? Non capisco. Figurati tu, Gesù, gatto. Vabbè, va, non ci vuoi fare. Aspetta. Lo stai inviando a qualche amico. Ehi, l'ho inviato un amico, lo inviato. Aspetta che sto comprando una cosa, non so perché mi sto poco fa non l'avevo più. Massimiliano. Eia. Cazzo. Un controllo di questa radio veloce che è stand by. Va bene, radio 5, perfetta. Ah, sto utilizzando l'altra, questa qua. Come? Che radio stai utilizzando? Uguale alla tua. Cazzo. Va bene, dai. Non sai che pensavo che non stavo andando in AM e invece deve essere che non era pulendola, dai. Ho spostato il watt a zero e non so di fa niente, che strano, ok. No, già stai andando bene, io a Puglia. Va bene, sono anche Rix. E questa com'è, Tino? Meglio dell'altra? Ma sì, secondo me non è abbinamento giusto col microfono, perché c'è la presenza, ma non è la timbrica. La timbrica? Ha regolato male il microfono, dici? No, sto usando un 60. Io? No, io no. Ho detto, non stai usando un 60. Ho capito, non sto usando un 60, ma è abbastanza buona come modulazione o che cosa? No, va bene, non è amplificata come dovrebbe essere, però va bene, è forte, è presente tutto quello che vuoi, ma non è come quella là. Lo so che non è come quella là, ma io se non lo porto bene un 60 lo devo con gaffa. Non lo porta bene, me l'hai provata? No, non l'ho provato perché primo che non ce l'ho. Vabbè. Aspetteremo la Claudio, se ne ha 4 o 5. però su queste radio ne ho provato tante e non vanno bene con la mia timbrica. Andare tutti si copri fuoco qua alla radio, alle 8 non vedo nessuno, tutti in orario, devono andare a mangiare. Guarda, ho postato una foto, è stata del 2020. Dove l'ha messa a Facebook? Guarda, perché è interessante. Tu hai sempre roba di mangiare. Ma vabbè, è un seminario, non è roba da mangiare, però. Si può capire cosa succede in agosto, settembre, ottobre. Agosto e settembre, almeno. Luglio. Ah, l'ho vista, l'ho vista. Hanno chiuso le palestre, quindi. E no, che non veniva un orario, eh. Vabbè. Ah, l'hai condiviso anche tu, quello della biondina. Ah, sì. Certo. Allora, ho deciso che ho messo, ho sentito così, intorno a 200 rotti di contravvenzione. Mi sembra 206 o 260 euro di verbale gli hanno fatto. Guarda, sempre poco, per me è sempre poco. E poi si è fatto il video per andare in spiaggia, Burtiloce la Vecchia. Adesso ho visto che hanno chiuso aeroporti e porti e quant'altro, ma ormai la merda è già dentro, cioè è inutile che tu ti caghi addosso, cioè caghi e poi chiudi il tappo, non dovevi far entrare la prima. Ma se ogni giorno stavano sbarcando 10-12 mila persone, attraverso che c'è la Sardegna piena di questa gente, fai chiudere i porti, che senso ha? Lo so anche perché, vabbè, è entrata anche gente che conosco io, da zona rossa addirittura, figurati. Guarda, tu pensa che noi abbiamo consegnato ieri all'aeroporto di Olbia, che l'abbiamo terminato, e non apre. Mi sembra che apre il 25. Vabbè, perché c'è un'ordinanza in corso, adesso l'hanno messo a poco l'ordinanza, ma voglio dire, da prima dovevano chiudere tutto quanto, non fa entrare più nessuno. Eh sì, adesso vediamo a Canale 5 se danno qualche altra ordinanza. Vediamo un po' se fermano anche nel nostro campo, tu? Non lo so. Da noi sì, da noi addirittura si è informato ieri, a quanto pare potevi lavorare, ma noi ci siamo fermati di volontà nostra anche perché c'era lo scavo aperto, quindi facciamo una cosa, ci finiamo questo pezzo, vediamo come vanno le cose, dopodiché valutiamo. Non ce l'ho fatta, sto facendo anche un provvedimento di marciapiede, c'è un altro, sono la mano, quindi non ci abbiamo fatta a finirlo, abbiamo rimandato a lunedì, però finito quello fermiamo tutto. Kappa, andrà bene. Bene. Ma Massimiliano, che mi scarico un po' di foto dal telefono, perché sennò ci ho intasato, così almeno me lo svuoto. Interagisco con telefono e PC. Va bene. Ciao Tino, dai, buona serata. Ci sentiamo domani se coincide. Saluto anche a Gianni allora, chi fosse in ascolto. Ciao, buona serata a tutti. Ciao Massimiliano, ciao. Dopo vado a farmi girare in cucina, vedo se trovo qualche cosa. Vado, ciao. Massimiliano, ciao Tino. Oh Massimiliano. Dimmi già. Quell'app che tu mi hai mandato, quel dove c'è quel tipo, quel DG, si chiama TikTok. La conosci? No. Allora si scrive Tik con la K, Tok con la K finale. Me l'ha mandato mia figlia, mi ha scritto che ci sono praticamente tante di queste cose qua che ti fanno cagare da delle risate. Adesso lo cerco già. Ok. Dai, sto chiudendo, me ne sono un po' giù con loro, là, che sono da sole. Ciao già, ci sentiamo, buonasera. Ehi, ciao, ma ci viene adesso al 10, vado a mangiare, mi guardo per il giornale. Sentiamo Massimiliano, buona continuazione, ciao. Ciao Dani, ciao. Ciao Massimiliano, si sente. E io, ciao, ci sentiamo, ciao.